lapidati da incrociare per trovarmi chissà dove. Bussi alla mia porta e lasci droghe nuove. Chissà cosa il mercato vorrà, cosa di meglio farà. E con i miei soldi non si sa cos'è che comprerà. E intanto vedo che le cose non vanno niente bene. Niente bene le comari che mangiano ogni bene. Ogni bene è un tradimento e a voi che ve ne viene. Viene meno la parola. Dimmi cos'è che vuoi da noi. Qualcosa di nuovo e volerò nel cielo in cerca di qualcosa che non mi hai dato mai. Credo di essere parente o imparentato con milioni di persone che hanno chiesto al vicinato se mi servisse un viaggio gratis o un prestito. Difatti mi hanno regalato un viaggio in Messico. Apro la mia posta e vedo buone nuove, danno soldi e vedo scritto sul mio nome sì c'è scritto ed è incredibile, c'è scritto ti ringrazio invece di viaggiare pagami l'affitto. Tu mi conosci, sai chi sono e sai che voglio, ma perché ti ostini ancora a darmi colpi nell'orgoglio? Ma perché ti ostini ancora a dirmi che non ho problemi quando l'Italia ha dei buchi grossi e non solo da ieri? Io non capisco come fai a dare consigli,